questa mattina era stato annunciato dai giovani di Azione Universitaria l'arrivo di Fini all'università per dibattere sulla Costituzione Europea, ma in realtà per fare propaganda elettorale alla stessa Azione Universitaria, visto che sono in corso le elezioni per il rinnovo delle rappresentanze studentesche. Ebbene, noi chiaramente, così come già accaduto in altre occasioni, abbiamo organizzato un appuntamento di contestazione e rifiuto della presenza del governo all'università e quindi di Fini come esponente di spicco di un governo che fa la guerra, di un governo che fa leggi razziste e proibizioniste, di un governo che precarizza il mondo del lavoro e della formazione. E quindi oggi ci siamo ritrovati in 300-400 studenti di fronte alla Facoltà di Scienze Politiche per rivendicare l'università come spazio pubblico di partecipazione e come spazio di conflitto. Fini, non avendo la garanzia da parte di questi servili burocrati di partito, di Alleanza Nazionale, la garanzia dell'ordine e della sicurezza, ha disertato questo appuntamento. Le agenzie stampa e anche la polizia dichiarano che Fini non è venuto perché c'era un problema di ordine pubblico e questo conferma il fatto che il conflitto sociale all'università viene tradotto nei termini dell'ordine pubblico. Ebbene, noi invece siamo contenti di rivendicare questo dato di vittoria politica, perché ancora una volta, dopo il settecentenario di 2 anni fa, dopo l'annuncio dell'arrivo di Putin insieme a Berlusconi, anche in quel caso fatto saltare, anche oggi siamo riusciti a respingere questo governo dall'università. Da sottolineare il fatto che però Fini non è venuto anche perché non aveva pubblico che l'ascoltava, perché in un'aula di 800 posti erano seduti solo 40 ragazzi, tra virgolette, di Azione Universitaria che li facevano da servizio d'ordine da pubblico. Alla fine del sit-in, una volta che era sicuro che Fini non veniva, ci siamo spostati in corteo per la città universitaria per ribadire che l'università è nostra e non dei fascisti. C'è stato un piccolo fronteggiamento a Giurisprudenza, allora erano in 30, in una scena abbastanza grottesca, facevano saluti romani scortati da centinaia di agenti della Digos e delle forze dell'ordine, però chiaramente non hanno avuto alcuno spazio se non la protezione della polizia, quindi siamo felici di rivendicare questo dato e continueremo nelle nostre mobilitazioni i prossimi giorni anche rispetto alla vicenda delle espulsioni a 5 studenti di scienze politiche colpevoli di aver contestato la guerra all'università lo scorso anno.